Vangelo di Matteo, capitolo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro, e la sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavan conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, «Signore, gli è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi son compiaciuto. Ascoltatelo». E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse, «Levatevi e non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine, «Non parlate di questa visione ad alcuno, finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono, «Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli rispondendo disse loro, «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto, e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figliuolo dell'uomo ha da patir da loro». Allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che egli aveva loro parlato. E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli s'accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo, «Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire». E Gesù rispondendo disse, «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua». E Gesù sgridò l'indemoniato, e il demonio uscì da lui, e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli dissero, «Perché non l'abbiamo potuto cacciar noi?» E Gesù rispose loro, «A cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avrete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte, passa di qui là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Or questa specie di demoni non esce, non mediante la preghiera e il digiuno». Or come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro, «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono grandemente contristati. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscotevano le diagramme si accostarono a Pietro e dissero, «Il vostro maestro non paga le diagramme?» Egli rispose, «Sì». E quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse, «Che te ne pare, Simone? I re della terra, da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse, «I figlioli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vattene al mare, getta un amo, prendi il primo pesce che verrà su e aprigli la bocca. Troverai uno startere, prendilo e dallo loro per me e per te».